in 60 minuti di Simone Spezia. Camusso eletta con tessere false, dice un eurodeputata del Partito Democratico. Si alza il livello dello scontro con la CGIL, che dice siamo indignati. Mai reticenza da Napolitano, dice il procuratore di Palermo a Radio 24. Il riferimento all'attacco alle istituzioni è un passo avanti per l'inchiesta. Ast di Terni, ottimismo dal sottosegretario al lavoro Bellanova, ma in piazza ci sono i dipendenti, il corteo viene deviato, tensione con la polizia. Convinti che i musulmani siano il 30% della popolazione e che la disoccupazione giovanile sia molto più alta, italiani in cima alla classifica dei meno informati. Turno infrasettimanale per il campionato, la Juventus in campo contro il Genoa, la Roma ospita il Cesena. Evelina Cristilin si scusa per le frasi su Toir, definito un cicciobello, e i Moratti paragonati alla famiglia Adams. Dopo il successo dell'estate con Logico, Cesare Cremonini fa il pienone nella prima tappa di un tour per il quale sono già staccati oltre 100.000 biglietti. Buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete come sempre le potete commentare via sms al 349-238-6666 o scriverci a effettogiorno@radio24.it. In apertura il nuovo scontro durissimo tra una parte del Partito Democratico e la CGIL. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Scontro, Simone, che si sta alimentando di ora in ora, e per ricostruirlo dobbiamo necessariamente partire dall'intervista della Camusso a Repubblica di questa mattina. La leader CGIL punta il dito sul Presidente del Consiglio e dichiara: Renzi è a Palazzo Chigi per volere dei poteri forti. Camusso rimanda per questo ad una dichiarazione di Marchionne che lo scorso 2 ottobre sui nodi del lavoro diceva: c'è la necessità di togliere i rottami dai binari, l'abbiamo messo lì per quella ragione. Dichiarazione questa dell'amministratore delegato di Fiat che secondo la Camusso non è mai stata smentita. La replica quindi dal Partito Democratico affidata all'eurodeputato Pina Picerno: potrei ricordare che la Camusso è stata eletta con tessere false o che la piazza di sabato è stata riempita con pullman pagati, ma non lo farò. Le parole della Picerno, quindi il dietro fronte della stessa europarlamentare: non era mia intenzione lanciare accuse, ma chiedo rispetto per un governo che ha ottenuto la fiducia del Parlamento. Dal PD a prendere posizione sono quindi il vice segretario Guerini, rispettiamo la CGIL, loro rispettino noi, e il presidente Orfini. Renzi a Palazzo Chigi lo ha messo il PD, decidendolo in direzione. Poco fa la nota del sindacato di Corso d'Italia: siamo indignati, scrivono dalla CGIL, per le falsità della Picerno sulle tessere che sono invece certificate. È tutto, Simone. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Sarà disponibile in questi giorni alle parti e quindi pubblica la trascrizione integrale della deposizione di ieri del capo dello Stato nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Lo stesso Quirinale ha sollecitato tempestività, ma incrociando appunti e ricordi di chi era presente nella sala del Bronzino, da subito è stato possibile ricostruire, come avete sentito già ieri su Radio 24, quello che Giorgio Napolitano ha risposto alle domande di PM e avvocati, i suoi racconti sulla stagione delle bombe del 93, i commenti sulla lettera del consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, coi timori di essere stato scriba per indicibili accordi, queste le parole di D'Ambrosio. Il capo dello Stato rievoca i giorni della paura di un colpo di Stato e parla di un out-out di Cosa Nostra. È lì che si è insinuata una trattativa, come ipotizzano i PM palermitani. Per il procuratore reggente di Palermo, Leonardo Agueci, quel riferimento è un passo avanti per l'inchiesta. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. È stata una giornata molto importante per le istituzioni del nostro Paese. Sul piano pratico poi è stato un atto processuale per noi di grande risultato. Ci ha consentito di acquisire degli elementi importanti. Contribuisce a quel quadro d'insieme che riteniamo di poter dimostrare nello svolgimento del procedimento. Il Presidente ha parlato appunto delle fibrillazioni istituzionali per gli ultimi sussulti dell'ala oltranzista di Cosa Nostra che sembrava porre un out-out ai poteri pubblici. Il termine fibrillazioni, quello lo ricordo. Un out-out che può essere tradotto, diciamo, anche con un termine ricatto. Il discorso è un po' più sfumato. La ricostruzione è stata di uno stato delle istituzioni in qualche modo sotto attacco, di attacco proveniente dall'ala più violenta di Cosa Nostra, si era fatto riferimento esplicito ai corleonesi. Il resto è in materia di interpretazione, queste ulteriori considerazioni serviranno a completare un quadro. Il passaggio in cui il Presidente ha negato di aver mai saputo di accordi indicibili irriducibili, per dirla con le parole della lettera del consigliere D'Ambrosio, non rappresenta un punto in meno rispetto alla ricostruzione della procura? Potevamo sperare di avere qualche chiarimento in più. Noi prendiamo atto che su queste cose il presidente non ha avuto null'altro da aggiungere a quello che ha detto, e non abbiamo motivo di ritenere che sia stato in qualche modo evasivo o reticente. Insomma, l'atteggiamento non è stato assolutamente reticente. L'intervista integrale al procuratore di Palermo sulla trattativa e i commenti sull'audizione di Napolitano li sentirete in onda nel fine settimana nella trasmissione Storiacce, sempre a firma della nostra Raffaella Calandra. Intanto il Parlamento è ancora in attesa di votare per eleggere i giudici costituzionali. Luciano Violante si tira ufficialmente indietro con una lettera molto dura. Si rivolge a tutti i parlamentari Luciano Violante nella lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera, con la quale annuncia il suo ritiro dalla corsa per la Consulta. Dopo 4 mesi, 20 fumate nere e diversi candidati bruciati, è necessario fermare una deriva che offende l'autorevolezza delle istituzioni e la dignità delle persone, spiega l'esponente democratico, il cui passo indietro riapre ora una partita che resta comunque complicata. Se necessario per sbloccare lo stallo, nei giorni scorsi il premier Renzi non aveva escluso l'ipotesi di individuare nomi diversi da quello di Violante, questo anche per trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle. Dopo i primi contatti fra democratici e pentastellati sulla questione, ieri sera è intervenuto anche Beppe Grillo, che dal suo blog ha chiesto che il confronto avvenga alla luce del sole e ha invitato il PD a non tentare la via della trattativa segreta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nei giorni nei quali si prepara una sorta di passaggio di consegne tra l'operazione Mare Nostrum e quella europea Triton, tra mille polemiche, la Caritas diffonde il suo consueto rapporto sull'immigrazione. Non più giovani soli, migranti in cerca di lavoro, ma donne, bambini e anche alcuni migranti ormai nonni. Questa è l'istantanea della migrazione scattata dal dossier statistico Immigrazione 2014. Nel complesso la presenza straniera è stimata in 5.364.000 persone, in crescita di 178.000 unità rispetto all'anno precedente, ma con un ritmo sempre più lento se si paragona al flusso degli anni passati. A marcare la differenza maggiore è il netto crollo degli ingressi per motivi di lavoro. Arrivano donne e bambini per ricongiungimenti familiari con padri inseriti che lavorano regolarmente, oppure arrivano profughi e rifugiati in fuga dalla guerra. E si capisce bene perché non vengano più in Italia in cerca di lavoro. Tra gli stranieri il tasso di disoccupazione è al 17%, mentre tra gli italiani è all'11%. Nel 2013 poi è cresciuto anche il divario della retribuzione netta mensile percepita in media dagli stranieri. Il dossier contiene anche dati inediti sulla criminalità degli immigrati. Ne emerge una crescita delle denunce contro gli stranieri meno marcata rispetto alla loro presenza numerica. Le denunce contro italiani sono aumentate del 37%, quelle contro gli stranieri del 29%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma quanto ne sanno, e qua probabilmente anche noi giornalisti qualche colpa dovremmo prendercela, quanto ne sanno davvero gli italiani di questo come di altri argomenti? Ecco la domanda finale, la domanda chiave per il premio da 5 milioni e 120 mila lire. Non siamo all'ascio raddoppia, nessun montepremi in palio. Ci fosse stato, è certo che gli italiani non l'avrebbero vinto. Ipsos Mori, una società britannica di indagini e ricerche di mercato, ha svolto sondaggi in 14 diverse nazioni per capire quanto gli intervistati sapessero del proprio paese. Le risposte date da un campione di circa 1000 italiani tra i 18 e i 64 anni e di ogni estrazione sociale sono state poco incoraggianti. Facciamo un esempio: alla domanda qual è la percentuale di immigrati su tutta la popolazione, in media le risposte hanno indicato il 30%, dato distante di 23 punti da quello reale 7%. Non va meglio alla domanda su quante siano in Italia le persone disoccupate in età di lavoro, risposta 49%, dato catastrofico a fronte della già poco rassicurante percentuale reale 12%. Dei 14 paesi testati, il nostro è risultato il più ignorante, quello con la percezione meno accurata. Virtuosi invece gli svedesi, i migliori tra gli esaminati. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È in corso il corteo dei lavoratori delle acciaierie speciali Terni nel giorno nel quale doveva in parte ripartire la trattativa e sulla quale poco fa il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova ha espresso un cauto ottimismo. È corteo che ha visto anche delle tensioni. Alessandra Schepisi in diretta da Roma, buongiorno. Allora, no, Alessandra, allora abbiamo evidentemente un problema di linea, non riusciamo a sentirti, non riusciamo a sentire che cosa ci stai dicendo. Naturalmente torneremo a collegarci con te più avanti. Nel frattempo stiamo cercando anche di raggiungere il sottosegretario Bellanova e vedremo se riusciremo a parlarci per parlare anche del tema di apertura, ossia questo nuovo scontro tra la CGIL e il Partito Democratico. Noi passiamo nel frattempo ad altri argomenti, la musica. Innanzitutto Cesare Cremonini è stato il recordman dell'estate con Logico e ora è il momento dei live, è partito ieri sera a Milano. I fan lo attendevano da mesi. La mia infanzia è tutto praticamente, ogni sua canzone mi trasmette delle emozioni. Siete un po' cresciuti con lui? Sì, io sì, è una cosa diversa però, in una può per una cosa, Cesare Cremonini è un'altra, secondo me si è evoluto. La data 1 è arrivata, quella di Milano, l'attesa però si è prolungata con un brivido in più per qualche problema tecnico, ma Cesare Cremonini non si è spaventato né lasciato distrarre. Credo che sia quando c'è attenzione nei tuoi confronti, cioè quando in qualche modo sei al centro della cornice del quadro, no? È bello proprio oggi proporre quello che sai fare, quindi è una scaletta caleidoscopio, è un concerto caleidoscopio questo. Logico, la canzone dell'estate, un successo enorme che Cesare interpreta così. L'Italia non può fare a meno che sotto tutta questa armatura elettronica, contro elettronica, di cui ci divertiamo tanto a parlare, ci sia una canzone. Io spero un giorno di avere l'occasione di cantartela piano e voce, Logico, è ancora più intenso. Si ripete questa sera a Milano, ancora sold out, poi altre 13 date italiane fino al 27 novembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio ora con il turno infrasettimanale di questa sera. Iniziamo appunto da una presentazione di questa serata con Giovanni Capuano, che tra poco sarà in diretta con tutti i convocati. Giovanni, eccoci. Eccomi, beh, finalmente si gioca dopo tre giorni in cui abbiamo discusso di tutt'altro e ci siamo misurati su da dove provenisse Toir, quanto fosse grasso o meno. Finalmente questa sera si gioca, le partite sono quelle della nona giornata di Serie A, c'è il solito duello a distanza tra Juventus e Roma e poi ci sono un paio di match da circolino rosso nella corsa di quelli dietro, quelli che sulla carta possono aspirare soltanto a un posto in Europa. Partiamo dal duello tra Juve e Roma. La Juventus va a Genova contro il rossoblù ed è una partita non semplice. La Roma sulla carta ha un turno più facile, ospita il Cesena e quindi oggi nell'alternanza delle due capoliste spera di poter recuperare qualcosina dai tre punti di distacco che oggi la separano dalla Juventus. I riflettori però sono puntati particolarmente su San Siro, dove c'è Inter-Sampdoria, che è poi l'incrocio tra Mazzarri, che è un tecnico contestato, e Mihajlovic, che è l'uomo che i tifosi dell'Inter, gli stessi che questa sera molto probabilmente fischieranno Mazzarri, sognano di vedere sulla panchina nerazzurra. Poi c'è Cagliari-Milan con Inzaghi che cambia modulo anche su suggerimento di Berlusconi, ci sono Atalanta-Napoli, Fiorentina, Udinese, Palermo-Chievo. C'è Torino-Parma che segna il ritorno in campo di Gianluca Rocchi, che era l'arbitro di Juventus-Roma. Sono passati 24 giorni. Notizia di oggi, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine su quella partita. L'ipotesi di reato è aggiotaggio per gli errori di Rocchi, perché in Italia capita anche questo. Poi per fortuna questa sera si gioca. Perché entrambe le squadre tra l'altro sono quotate. Senti Giovanni, lo citavi già in apertura, no? C'è stata questa polemica con Evelina Cristillin, grande tifosa Juventina, che scrive sul suo blog sull'Huffington Post, probabilmente scherzando, no? Dice lei, satira, definendo Toir cicciottello, cicciobello, qualcosa di questo genere, e i Moratti, la famiglia Adams. Sì, lei si è, diciamo, scusata, anche se in realtà più che scusarsi ha provato a spiegare con un comunicato all'ANSA, ha detto chi segue il mio blog da 2 anni sa che io parlo da tifosa, quella è satira sportiva, non è un luogo dove si fa un ragionamento serio, quelle frasi le avevo anche già usate altre volte senza che nessuno mi dicesse niente. Intanto però ieri sera in tutta fretta è tornata nel blog e ha corretto quell'articolo che aveva pubblicato prima ancora di questo comunicato di precisazioni. Diciamo che in questa 3 giorni di impazzimento complessivo in cui sul presidente dell'Inter, l'attuale presidente dell'Inter, è stato detto tutto il contrario di tutto, mancava forse questa chicca, non ce la siamo fatti mancare. Probabilmente la settimana prossima Evelina Cristillin starà un po' più attenta a quello che scrive, anche se scrive da tifosa. Senza dubbio, anche questi temi per tutti i convocati dopo, a partire dalle 14. Il numero per intervenire in diretta è l'800 24 00 24. Come sempre siamo in grado di collegarci di nuovo con Alessandra Schepisi in mezzo alla manifestazione delle acciaierie speciali Terni. Alessandra, eccoci, che situazione c'è? Sì, eccoci. La situazione, ci sono stati attimi di fortissima tensione poco fa, proprio a Piazza Indipendenza, davanti tra l'altro alla sede del Sole 24 Ore, perché ci sono stati degli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti della Thyssen Group, tafferugli, manganellate da parte della polizia. C'è stato anche un ferito che è stato trasportato in ambulanza. Da parte dei manifestanti c'è stato anche il lancio di bottiglie, insulti nei confronti delle forze dell'ordine. Un sintin che è partito, un corteo che è partito questa mattina davanti all'ambasciata tedesca e che adesso si sta dirigendo verso il Ministero dell'Economia, e appunto il momento di massima attenzione si è avuto appunto in Piazza Indipendenza. Adesso, dopo lunghe trattative, tra l'altro c'è anche il leader della Fiamme Landini, i manifestanti hanno ottenuto di poter dirigersi verso il Ministero dell'Economia, blindati, ci sono tantissimi blindati delle forze dell'ordine, lì c'è un incontro tra l'altro tra i vertici della Thyssen e il governo, e i manifestanti lentamente ma scortati da decine di blindati si stanno dirigendo verso quella direzione. La situazione sembra un po' più tranquilla in questo momento. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Ci fermiamo per il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla manovra parla il commissario Katainen, il via libera di oggi non esclude che la commissione possa adottare altre procedure. Camusso è eletta con tessere false, dice un eurodeputata del Partito Democratico. Si alza dunque il livello dello scontro con la CGIL, che dice siamo indignati. Mai reticenza da Napolitano, dice il procuratore di Palermo a Radio 24, in riferimento all'attacco alle istituzioni, un passo avanti per l'inchiesta. Convinti che i musulmani siano il 30% della popolazione e che la disoccupazione sia molto più alta, italiani in cima alla classifica dei meno informati. E a proposito di quest'ultima notizia, prima di passare al prossimo argomento, al servizio che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa, c'è chi ci scrive che la cifra del 7% immigrati non considera i clandestini, considera solamente gli immigrati regolari. E però a chi ci dice, questa stessa persona ci dice, siete bugiardi. Non siamo bugiardi, perché secondo questo sondaggio di Ipsos Mori gli italiani sono convinti che la popolazione straniera in Italia sia il 30% della popolazione, che sarebbero 20 milioni di persone. Ora, magari da quel 7% mancheranno immigrati irregolari, e però non credo proprio che si arrivi a 20 milioni. Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Con noi ancora una volta per parlare di ISIS. La notizia di oggi è un attacco, anzi sono due in realtà, da una parte e dall'altra. Gli jihadisti dell'ISIS hanno attaccato un giacimento di gas nella zona di Homs in Siria, uccidendo 30 uomini dell'esercito del regime siriano, questo da una parte in Siria. Dall'altra parte, sempre in Siria, a Kobane, città nella quale ancora si combatte ormai da settimane tra curdi e uomini dell'ISIS e jihadisti dell'ISIS, città al confine tra Turchia e Siria, sono arrivati i Peshmerga dall'Iraq, altri 150 curdi che si vanno aggiungere alle forze che combattono contro gli jihadisti. Come può concludersi, dottori, secondo lei, la vicenda di Kobane? Ma intanto mi pare piuttosto interessante che siano arrivati i Peshmerga provenienti dall'Iraq, il che significa che probabilmente i rapporti di forza interni alla resistenza curda che sta in questo momento fronteggiando le milizie dello Stato Islamico vengono in qualche modo modificati. Erdogan non consentiva il passaggio di elementi del PKK a Kobane perché ha un problema ovviamente con i curdi del proprio paese, anche se a tratti ne ha cercato l'appoggio per modificare la costituzione del proprio paese. Diverso invece il caso dei Peshmerga vicini a Barzani, che è un alleato politico di Erdogan. Questo è comunque un passo molto positivo per la resistenza di Kobane e la sua possibilità di salvarsi dall'attacco dello Stato Islamico che, come giustamente notava, tuttavia nella sua domanda ha preso di mira altri bersagli. Anche questo è un elemento di novità perché diciamo si è osservata finora una relativa ritrosia dello Stato Islamico e prima dello Stato Islamico dell'ISIS ad attaccare il regime di Damasco. Qui mi pare invece che sia stata compiuta una mossa offensiva piuttosto rilevante che colpisce il regime di Damasco in un elemento vitale che ha a che fare con le proprie risorse energetiche, quindi la capacità di procurarsi denaro con le esportazioni di gas. Ascolti, dottori, qua torniamo sempre, se vuole, alla solita domanda, però che è una domanda che naturalmente interessa tutti, perché le minacce di ISIS all'Occidente continuano ad essere molto forti e si sta presentando anche un timore per quelli che abbiamo definito i lupi solitari o i cani sciolti, come volete naturalmente, coloro che possono andare a colpire non necessariamente obiettivi occidentali, per così dire, obiettivi grandi, non necessariamente con attentati, ma colpendo magari direttamente le persone, come ad esempio l'uomo che ha attaccato il Parlamento canadese o l'altro che ha colpito con un'accetta due poliziotti a New York. Quindi è una questione che interessa a tutti. Può essere vinta la battaglia contro ISIS così, in questo modo, con i raid aerei e con magari l'intervento oggi dei Peshmerga curdi, domani magari di altre forze arabe, ma senza un intervento di terra massiccio da parte dei paesi occidentali? Ma io sono abbastanza scettico, sono in verità scettico anche rispetto all'effettiva determinazione degli Stati Uniti e dei loro alleati a liquidare effettivamente lo Stato Islamico. Io penso piuttosto che in questa fase si punti a degradarne le capacità e magari attraverso il degrado delle capacità operative dello Stato Islamico anche a provocare una certa moderazione delle sue politiche. Quanto questo sia realistico al momento non sono in grado di giudicarlo. Certo è un problema il fatto che questa struttura sia riuscita a mobilitare l'Islam politico radicale sparso nel mondo attraverso il web e stia scommettendo anche su questo fattore dei lupi solitari, i quali rappresentano un rischio ridotto ma molto diffuso e assolutamente imprevedibile nel manifestarsi. Io credo che convivremo a lungo con questo rischio e le stesse comunità musulmane residenti nei nostri paesi, inclusa l'Italia, avvertono che rappresentano un rischio effettivo rispetto al quale anche loro sono impotenti, perché le comunità musulmane controllano le moschee, mentre invece tutto questo avviene al di là dei luoghi di culto, al di fuori dei luoghi di culto. Grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS, che come sempre, come spesso succede, ci aiuta a capire quello che sta succedendo soprattutto sul terreno. E saluto Giulietta Pagliaccio, che è presidente della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno e benvenuta. In parte ne ha già parlato Gianluca Nicoletti, a suo modo naturalmente, dalle 12.30 alle 13. Ne vogliamo parlare anche noi, queste parole di Giuliano Pisapia, che dice, si rivolge ai ciclisti e vi dice: dovete rispettare le regole dopo la morte di una donna di 88 anni a Milano, che è stata investita appunto da una persona che andava in bici. c'è un problema di questo tipo, c'è un problema di scarso rispetto delle regole, soprattutto nei confronti dei pedoni, da parte di chi usa la bici, non solo a Milano, parlo di tutte le città nelle quali viene utilizzata per spostarsi. Posso dire anche cose un po' scomode, spero. Innanzitutto voglio approfittare di questa situazione per dare il cordoglio mio personale e di tutta FIAB ai parenti di questa signora. E purtroppo spessissimo siamo chiamati in causa in altre situazioni dove la vittima invece è un ciclista, il più delle volte. Perché? Perché le strade sono diventate nelle città sono diventate una sorta di giungla dove ognuno crede di poter avere magari una priorità rispetto ad altri. Trovo stucchevole tutte le volte che si succede un disastro di questo genere, un dramma, rimpallarsi delle responsabilità. È stucchevole e anche molto infantile, sembra sempre di sentire dei bambini che parlano lui è peggio di me. Basta, di queste situazioni veramente non fanno bene a nessuno. Ci sono delle situazioni che sono, come dire, un po' paradossali, c'è una necessità di rispetto delle regole e in qualche modo il sindaco ha fatto anche bene a richiamare questa cosa qua. Detto questo, io parlo di rispetto delle regole da parte di tutti. Senta, c'è chi ci scrive via SMS: a Losanna sono targate anche le biciclette. Potrebbe non essere male una cosa di questo genere. Io adesso non voglio entrare in questo dettaglio che è anche molto tecnico, la targa, sentito molto spesso parlare. Beh, non è così tecnico, mi scusi, consente di identificare un eventuale trasgressore, certo, no? Certo, però mi sembra un po' di prendere il problema dalla coda. Allora, appunto ha citato Losanna, cioè la Svizzera, cioè una situazione particolarmente favorevole anche all'utente in bicicletta. Noi in Italia abbiamo situazioni che sono alla follia per chi decide di usare un mezzo diverso dall'auto privata. Allora, cominciamo a rendere più bike friendly le nostre città, cioè più accoglienti, più utilizzabili da tutti, a partire dall'utente più vulnerabile. E l'utente più vulnerabile è il pedone, il ciclista e poi a cascata il motociclista, eccetera, eccetera. Quindi sono le città che vanno adeguate. Nell'adeguare le città poi vanno adeguate anche le norme, le regole, regole che ovviamente devono essere rispettate e questo, ripeto, a prescindere dal mezzo di trasporto che sto utilizzando. Non mi piace questa contrapposizione perché potremmo dire ad esempio che spessissimo troviamo sulle piste ciclabili, poche quelle che ci sono, pedoni che viaggiano sulla pista ciclabile, non per questo alziamo i muri contro i pedoni. Allora, grazie a Giulietta Pagliaccio, Presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Un ascoltatore fa notare via SMS: cavoli, siete passati dall'ISIS alle biciclette. La trasmissione è così, ci occupiamo di tutto, naturalmente non necessariamente cose che abbiano la stessa dignità, però ci occupiamo di tutto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La legge di stabilità pesa sui comuni non per 1,2 miliardi ma per 3,7, dice il presidente dell'ANCI Fassino, che chiede una forte correzione della manovra. Il commissario Katainen intanto dice che il via libera di oggi non esclude che la commissione possa adottare altre procedure. Camusso eletta con tessere false, dice un eurodeputata del Partito Democratico dopo che la segretaria della CGIL aveva parlato di un premier eletto dai poteri forti. Si alza dunque il livello dello scontro col sindacato che dice siamo indignati. Mai reticenza da Napolitano, dice il procuratore di Palermo a Radio 24. Il riferimento all'attacco alle istituzioni è un passo avanti per l'inchiesta. Ast di Terni, ottimismo dal sottosegretario al lavoro Bellanova, ma in piazza sono andati i dipendenti, ci sono stati scontri con la polizia, due operai feriti alla testa e portati in ospedale, Landini dice sono stati caricati. La borsa. Borse in diretta. È una giornata negativa, meno 0,86% per il FTSE MIB, meno 0,8% per il FTSE All Share, mentre nel resto d'Europa le cose vanno bene. Più 0,71% Francoforte, Parigi più 0,3%, Londra più 0,72%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai Milano va peggio delle altre piazze finanziarie? Milano è zavorrata innanzitutto dalle azioni delle banche, che quest'oggi sono tutte deboli, fatta eccezione per MPS, che in questo momento in verità sta perdendo mezzo punto percentuale, ma fino a poco fa era positiva sull'ipotesi che nei prossimi giorni siano presentate misure straordinarie e chi lo sa, probabilmente un'aggregazione con un altro istituto. Poi inoltre, sempre tra le azioni a maggiore capitalizzazione, crollano le ST, meno 8,98% dopo i conti trimestrali, ma soprattutto dopo le indicazioni per i mesi a venire, mesi in cui la società dovrebbe accusare un ribasso sia dei margini sia del fatturato. Quindi anche Saipem dopo il crollo di ieri perde il 4,5%, non sono piaciute le indicazioni date soprattutto per il debito di fine anno. Infine FCA, appena pubblicato i conti del trimestre, subito i titoli che erano positivi hanno imboccato la strada del ribasso e perdono il 2,5%. FCA, lo ricordiamo, che è la nuova Fiat, perché insomma, dato che è da poco che ha assunto questo nome, rischiamo che gli ascoltatori se lo dimentichino. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Saluto Alessandro Lanfranchi, presidente di Padania Acque, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché siete al centro di un'iniziativa particolare, come dire, in tempi di crisi c'è chi non riesce a pagare la bolletta dell'acqua e a Cremona avete deciso di fare che cosa? Ce lo spiega? Sì, allora, abbiamo cercato di realizzare e di creare più coesione sociale sul territorio di Cremona e della provincia di Cremona. Noi siamo il gestore dei servizi idrici della provincia di Cremona, appunto attraverso questa iniziativa che sostanzialmente vuole contrastare il fenomeno della morosità, quella incolpevole, dettata chiaramente da questi gravi e pesanti tempi di crisi, e quindi dare una mano ai comuni. Il nostro è un territorio molto vasto con piccoli comuni, e creare una struttura di supporto ai servizi sociali che consenta di far fronte a queste difficoltà, sì, che le famiglie e gli utenti hanno. Ecco. Quindi gli fate far lavori socialmente utili? Immaginiamo di trasformare dei momenti di difficoltà, ipotizzando di aprire una sorta di conto corrente dove non girano soldi, ma girano litri d'acqua da una parte e buone pratiche, e impegno sociale sul territorio a favore di associazioni di volontariato piuttosto che degli enti locali stessi, dei comuni stessi. Quindi una sorta di baratto, torniamo indietro un attimo, ma per creare valore per un territorio. Cioè, e che cosa faranno i morosi, per così dire? Allora, innanzitutto va creata la rete, e questa rete sarà pronta con i primi giorni del 2015, dove i servizi sociali dei comuni identificano quali sono le situazioni di difficoltà che meritano rispetto a quelle che non meritano, perché attenzione, non vogliamo di certo creare una situazione per coloro che se ne approfittano. E là dove c'è questa valutazione si garantisce la fornitura dell'acqua quale bene primario, e quindi garantire la fornitura di un bene così importante a fronte di un impegno da ritornare alla propria collettività in ore di volontariato piuttosto che in ore di lavoro a tenere pulito o a custodire i giardini pubblici o altre attività di questo tipo, tinteggiare le aule scolastiche. Voi quanti comuni servite? Noi forniamo 115 comuni. Avete intenzione di estendere la cosa, come dire, ad altri comuni o prima la sperimentazione? Lo estendiamo su tutto il nostro ambito di competenza, che è la provincia di Cremona, quindi tutti e 115 comuni. Benissimo, una bella iniziativa di Padania Acque, o meglio un'iniziativa che probabilmente in parte farà anche discutere. Grazie ad Alessandro Lanfranchi, prego, presidente, prego, di Padania Acque, per avercelo raccontato. Un paio di notizie prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Innanzitutto le parole di Nicola De Michelis, che della Direzione Generale delle Politiche Regionali della Commissione Europea, c'è stato un briefing di presentazione dell'accordo di partenariato con l'Italia, di fatto l'assegnazione dei fondi europei per i programmi operativi regionali. Ebbene, per Sicilia, Calabria e Campania c'è il rischio di perdere i fondi della programmazione 2007-2013 perché nella sostanza non hanno presentato i loro programmi. E infine una notizia di politica che arriva a proposito del DEF, soprattutto nell'allegato infrastrutture che accompagna il documento. Si prevede nella tabella che revoca e riassegna le risorse e l'assegnazione di 1.287 milioni alla società Stretto di Messina. Emerge da una interrogazione di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, che ha presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, per capire se si stia pensando a rimettere in piedi il progetto del ponte sullo Stretto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Springsteen, Born in the USA. E beh, perché vi faccio ascoltare questa canzone proprio oggi che la Federal Reserve si riunirà per decidere cosa fare in materia di politica dei tassi di interesse, per decidere come poter aiutare l'economia americana, per chiuderla con quella manovra di stimolo che ha mantenuto per molti anni? Ve la faccio ascoltare perché è rappresentativa di un aspetto molto importante dell'economia americana, e cioè il settore manifatturiero, che sta vivendo un momento di grande rinascimento e che in qualche modo risponde a questa canzone che apre dicendo Born down in a dead man town, nato in una città che di fatto, tra virgolette, è già morta. Morta perché non c'è più l'industria, perché non c'è più la raffineria, perché la ruggine ha preso il sopravvento su quella che era una florida economia industriale. È scritta questa canzone in risposta a quello che è successo all'inizio degli anni Ottanta, quando la rivoluzione reaganiana ha portato anche a una rivoluzione industriale, alla chiusura di molte fabbriche, alla disoccupazione, appunto alla ruggine della Rust Belt contro la Sun Belt, la fascia del sole, gli stati del sud che dalla Florida al New Mexico al Texas invece sono cresciuti in popolazione e dal punto di vista economico. Ebbene, oggi il manifatturiero sta andando molto meglio, 700.000 nuovi posti di lavoro dal 2010 ad oggi, un settore manifatturiero che ha trovato la sua strada nell'alta tecnologia, nell'innovazione, nella robotizzazione, nell'economia digitale, applicandola anche alla vecchia industria. Perché? Perché abbiamo visto come Fiat Chrysler Automobile, per esempio, è sbarcata in borsa non più tardi di qualche settimana fa. Oggi avremo, tra l'altro, i primi risultati trimestrali di questa nuova entità. Un altro risultato del manifatturiero che rinasce è che il 50% delle aziende americane che hanno un fatturato al di sopra di $1 miliardo, secondo una ricerca della Boston Consulting Group, hanno deciso o decideranno entro breve di riportare una parte del loro business negli Stati Uniti, il cosiddetto reshoring. Un modello dunque che in qualche modo ha funzionato e che noi in Italia, nel momento in cui facciamo delle riforme, nel momento in cui cerchiamo di cambiare, nel momento in cui cerchiamo di adattarci al passo dell'economia globale, credo che dovremmo studiare ed imitare in tutte le sue fasi. L'ultima c'è stata proprio due giorni fa, lunedì. Sentiamo. The Obama administration set to announce new executive action today to boost manufacturing activity to the tune of about $500 million. Liz McDonald in the Business Center. Maria Bartiromo, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno quando vi ho raccontato del NIEF, che nella sua veste di giornalista finanziaria ed economica annuncia il piano di Obama presentato lunedì, quando ha raccolto il suo gruppo di lavoro sul settore manifatturiero, l'Advanced Manufacturing Partnership Steering Committee, per lanciare altre tre iniziative in appoggio ai comparti più innovativi del settore. Faccio un passo indietro perché fin dalla campagna del 2012 Barack Obama aveva puntato molto sul rilancio del settore manifatturiero e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per rilanciarlo. Poi ha cominciato, ha creato 4 centri di eccellenza. Questa è un'iniziativa molto importante, sono dei centri, delle partnership private e pubbliche, dove le università, i privati e lo Stato vengono insieme, si uniscono per cercare di rilanciare quel particolare settore che in quella particolare zona geografica sta andando molto bene. Ci sono già 4 centri costituiti sotto l'auspicio del governo americano che funzionano e ce ne sono 4 che stanno per essere ultimati. Che cosa ha fatto l'altro giorno Barack Obama? Ha annunciato delle misure di supporto a questo progetto. Un progetto, ripeto, che noi in Italia dovremmo imitare. La prima iniziativa, favorire l'innovazione. Il Dipartimento per l'Energia, per la Difesa, per l'Agricoltura con la NASA investiranno 300 milioni di dollari in 3 tecnologie ritenute essenziali per la competitività dell'economia manifatturiera americana. Manifatturiero, attenzione, avanzato, e dunque materiali avanzati, sensori e manifattura digitale. Seconda iniziativa, occorre il personale qualificato e quindi sono stati stanziati 100 milioni di dollari, saranno disponibili in base a un concorso per dei programmi di qualificazione e riqualificazione della manodopera. Ci sono già dei programmi pilota della Dow Chemical, della Siemens, della Alcoa. Pensate che ci sono 1600 fabbriche in tutto il paese che vogliono partecipare a questo programma di riaddestramento, con 50.000 potenziali partecipanti che hanno già aderito all'iniziativa. Infine, il terzo punto, la creazione di un clima favorevole al business, non solo agevolare l'accesso a nuovi mercati, a nuove tecnologie, ma soprattutto a finanziamenti. E questo è quello di cui abbiamo disperato bisogno in Italia, perché le banche, uscite adesso dallo stress test, devono finanziare la crescita. Senza l'aiuto delle banche i business non vanno avanti. Ecco, questo insieme di iniziative ha fatto sì che la Masterlock ha riportato la produzione di serratura combinazione in America dalla Cina, Element Electronics ha riportato a Detroit l'assemblaggio di televisori, la General Electric ha deciso di riaprire una catena di montaggio a Louisville. Pensate, è la prima catena di montaggio inaugurata dalla GE in 55 anni. Ecco, alcuni come Ratner, che fu lo zar dell'auto, possono essere critici di alcuni di questi sviluppi, dicono che gli stipendi orari sono inferiori anche del 50% rispetto ai tempi d'oro. Forse. Però io dico, meglio avere posti di lavoro che non averli, anche perché sul piano macroeconomico le proiezioni danno di nuovo ragione a Obama. Grazie al recupero di competitività nel manifatturiero, l'America otterrà attorno ai 100 miliardi di dollari, sono proiezioni naturalmente, in esportazioni che ruberà, tra virgolette, ai concorrenti entro la fine del decennio. Per il 2020 si calcola che i nuovi posti di lavoro derivati dal reshoring, quindi dal ritorno a casa e dallo sviluppo del manifatturiero avanzato, saranno fra i 2,5 e i 5 milioni. 5 milioni di nuovi posti di lavoro. A danno di chi? Soprattutto a danno dell'Europa e del Giappone, che ho paura che continuano a restare fermi quando il resto del mondo si muove irrequieto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, un ritorno all'America, alle radici americane, le radici del manifatturiero, in questo caso del manifatturiero avanzato. E dunque, Simon & Garfunkel, America! Field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Due aggiornamenti prima di chiudere. Una è un'indiscrezione che arriva dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che avrebbe attivato le procedure per il commissariamento del consorzio Venezia Nuova, la società concessionaria per i lavori della realizzazione del MOSE. La richiesta sarebbe arrivata al prefetto di Roma. Naturalmente maggiori aggiornamenti quando ci sarà l'ufficialità. Infine, un aggiornamento dal corteo degli operai dell'AST di Terni. Arrivano delle dichiarazioni dimissioni di Maurizio Landini, leader della FIOM, che dice: appena siamo partiti in corteo siamo stati caricati senza alcuna motivazione. Anch'io, racconta, ho preso le botte dai poliziotti. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.